Session SND 2006 The Lost Mix con DJ At Mix e Money Ips. Sikins anima corre di boria sboria, mezzo boschi in anta craca, sa tra di cala stalla fue do schema traca, furri in sa domo fomo un costiero a sincero un mistero, fazzo sulla zuno la su scapo, cane a file ferro, cala buonore di diora, forroga sola, sa sdroga, bindi tre sanos in coma, picciocco scalanta droga, tipo sa moda per rimoria, sombre monte, scorra la sta sdo filo, smoleri, depiro a con cassa, corra luci, schi tremula, lupo si fabula, cala sa barra di chi narra, storia sa mala, sa bibbia tunganna, nana, contralla, le rosse, romane, rap niente, schi intendo. Dopo sempre foras de giro saresti su sample. Si parri tutto l'inte pinto a rabbino. Dovrimo un'anca da capo. Poprimo sbarra samarra de bico. Si chiacosta metà rinada io. In questa Italia paranoica ponoscana rosa. Io azote sondo che nell'urgia che abbrugini. Sogo sbrillano brulla calanta lacrima frida. Decora abbraccio zuzzuda savurga.